Signora White, disse Charles Ingalls, questa è mia figlia Laura. La signora White si tolse gli spilli di bocca e disse: Spero tu sappia cucire presto e bene. Sei capace di imbastire un risvolto di sbieco e di fare le asole? Sì, signora, disse Laura. Bene, allora appendi la cuffia a quel chiodo e cominciamo. Papà le fece un sorriso di incoraggiamento e se ne andò. Laura si augurò che col tempo lo sgomento e il tremore che aveva dentro sparissero. Appese la cuffia al chiodo, si mise il grembiule e si infilò il ditale. La signora White le porse dei pezzi di camicia da imbastire e le disse di andare a sedersi sulla sedia sotto la finestra, accanto alla macchina da cucire. Laura tirò un pochino indietro la sedia in modo che la macchina la nascondesse almeno in parte a chi passava sulla strada, chinò la testa sul tavolo e si mise all'opera. La signora White non diceva una parola. Con gesti scattanti e frettolosi continuava a spillare i modelli sulle stoffe e a tagliare camicie con le mani lunghe. Appena Laura aveva finito di imbastirne una, gliene passava un'altra. Dopo un po' che andavano avanti così, la signora White andò a sedersi alla macchina da cucire. Fece girare la ruota a mano per avviarla, poi la mantenne in movimento azionando il pedale col piede. Il fruscio ticchettante della macchina sembrava il ronzio di un bombo gigantesco. La ruota era una macchia confusa e l'ago una striscia lampeggiante di luce. Le dita grassocce della signora White palpeggiavano la stoffa, spingendola rapidamente sotto l'ago. Laura cuciva più veloce che poteva. Appena finiva una camicia, la metteva sul mucchio a sinistra della signora White e dal mucchio sul bancone prendeva i pezzi per imbastirne un'altra. La signora White prendeva le camicie dal mucchio di sinistra, che andava rapidamente diminuendo, le cuciva a macchine e le ammucchiava alla sua destra. C'era uno schema preciso. Nel passaggio delle camicie dal bancone alle mani di Laura e al primo mucchio, e da quello alle mani della signora White e all'altro mucchio. Era un po' come il giro che facevano carri e pariglie nella prateria quando costruivano la massicciata per i binari del treno, ma a muoversi lì erano solo le mani di Laura, che facevano passare l'ago da una parte all'altra della stoffa il più rapidamente possibile. Dopo un po' cominciarono a dolerle le spalle e la nuca. Sentiva un senso di oppressione al petto, le gambe stanche e pesanti, e la macchina le ronzava nella testa. A un tratto il rumore finì. Ecco fatto, disse la signora White. Aveva cucito l'ultima camicia. Laura doveva ancora imbastire attorno allo scalvo la manica di quella che aveva in mano e poi le restava da chiuderla per il lungo. Sul bancone c'erano i pezzi di un'ultima camicia. Questa la imbastisco io, disse la signora White. Siamo indietro. Sì, signora, disse Laura. Le pareva che avrebbe dovuto lavorare più in fretta, ma aveva fatto come meglio poteva. Un uomo si affacciò alla porta. Aveva la faccia piena di polvere, le guance malrasate. Sono pronte le mie camicie, Clancy? Gridò dalla soglia. Oggi pomeriggio, rispose il signor Clancy. Quando se ne andò, il signor Clancy chiese se erano pronte quelle benedette camicie. La signora White rispose che non sapeva di quali camicie si parlasse. Per tutta la risposta, il signor Clancy imprecò. Laura si fece piccola piccola e cercò di cucire ancora più in fretta di prima. Il signor Clancy prese delle camicie dal mucchio e parve sul punto di buttarle in faccia alla signora White, gridando e imprecando. Le ingiunse di finirle entro la mezza, o guai a lei. Non mi lascio comandare da nessuno io, rispose la signora White, tantomeno da un irlandese morto di fame come voi. Laura era così spaventata che non sentì quasi la risposta del signor Clancy. Cosa avrebbe dato per essere altrove? Ma la signora White disse che era ora di pranzo. La condusse nella cucina dietro la bottega e il signor Clancy le seguì gridando. La cucina era afosa, affollata e piena di cose sparse in giro. La signora Clancy stava apparecchiando la tavola e tre bambine e un maschietto bisticciavano tra loro cercando di spingersi a vicenda giù dalle rispettive sedie. Litigando e insultandosi, il signor Clancy, la moglie e la signora White sedettero a tavola. Laura non riusciva nemmeno a capire quale fosse l'argomento che li scaldava tanto e non avrebbe saputo dire se il signor Clancy ce l'aveva con la moglie o con la suocera e se le due donne litigavano tra di loro o con lui. Parevano tutti così furibondi che temeva cominciassero a menare le mani. Ma poi il signor Clancy diceva qualcosa tipo passa il pane, oppure mi riempi la tazza, per favore? E la signora Clancy lo faceva, anche se nel frattempo continuavano a insultarsi. I bambini non davano segno di sentire quelle urla. Laura invece era così frastornata che non riuscì a mangiare nulla e fu ben contenta di tornare al lavoro appena possibile. Il signor Clancy rientrò in negozio fischiettando allegramente come uscisse dal più sereno pranzo familiare. Quanto ci vorrà a finire quelle camicie? Chiese tutto giulivo. Non più di un paio d'ore, rispose la signora White. Ci daremo dentro tutte e due. A Laura venne in mente una frase che diceva spesso mamma: ci vuol gente di ogni tipo per fare il mondo. In 2 ore finirono 4 camicie. Poi Laura imbastì i colletti, un lavoro difficile che richiede attenzione. La signora White li rifinì a macchina e restavano ancora da cucire i polsini e da fare l'orlo in fondo. Quando ebbero finito anche quello, dovettero far combaciare bene i 2 lembi davanti e la chiusura dei polsini per cucire i bottoni e fare le asole. Non è facile mettere i bottoni tutti alla stessa distanza, ma ancora più difficile fare il buco delle asole della misura giusta. Basta che ti scappi un attimo la forbice e ti trovi con un buco troppo grande, ma basta aver tagliato un filo in meno ed ecco che l'asola viene troppo piccola. Tagliate le asole, Laura cucì rapidamente i bordi a sopraffilo e poi altrettanto rapidamente li coprì con piccoli punti tutti uguali, stretti l'uno all'altro. Detestava fare le asole e perciò aveva imparato a farle in fretta per finire più presto possibile e non pensarci più. La signora White andò a guardare come lavorava e disse: "A fare le asole sei più veloce di me." Finite quelle 4 camicie, restavano solo altre 3 ore di lavoro. La signora White ne tagliò ancora una e Laura rifinì quelle che avevano lasciato indietro. Non era mai stata seduta così a lungo. Le dolevano le spalle, il collo, aveva le dita arrossate perché si era punta tante volte col l'ago e le bruciavano gli occhi. 2 volte le toccò disfare un'impuntura e rifarla. Quando papà venne a prenderla non ne poteva proprio più. Tornarono a casa di buon passo. La giornata era finita, il sole stava tramontando. Com'è andato il tuo primo giorno di lavoro, scricciolo? Chiese papà. Te la sei cavata? Penso di sì, rispose Laura. La signora White è stata contenta delle mie asole. Il mese delle rose. Per tutto il dolce mese di giugno Laura imbastì camicie. Macchie di rose selvatiche fiorivano tra le erbe della prateria, ma lei le vedeva solo al mattino presto quando usciva con papà per andare al lavoro. Il cielo limpido del mattino si mutava via via in un azzurro più chiaro e già cominciavano a correrci in mezzo i primi sbuffi di bianche nuvole estive. L'aria sapeva di rose e lungo la strada le corolle coi loro petali appena schiusi e il centro dorato guardavano in su come tante piccole facce. A mezzogiorno, lo sapeva, grandi cumuli bianchi veleggiavano nel cielo turchino. La loro ombra correva palpitando sopra l'erba ondeggiante e sopra le rose fiorite. Ma a mezzogiorno lei era chiusa in quella cucina dove tutti gridavano. La sera, quando tornava a casa, le rose del mattino erano appassite e i petali volavano nel vento. Ma lei era troppo grande ormai per giocare a rincorrerli e poi era bello pensare che aveva cominciato a guadagnare dei soldi. Il sabato sera la signora White le dava 1,50 dollari e Laura lo portava a casa. Non voglio che tu mi dia tutto quello che guadagni, Laura, disse mamma un giorno. Dovresti tenere qualcosa per te. Perché, ma? Disse Laura. Io non ho bisogno di niente. Le scarpe erano ancora buone. Calze e biancheria ne aveva. Il vestito era quasi nuovo. Per tutta la settimana aspettava il momento in cui avrebbe portato a mamma il suo 1,50 dollari e spesso pensava che quello era solo l'inizio. Tra 2 anni avrebbe compiuto 16 anni, l'età minima per fare la maestra. Se studiava tanto e con impegno, se prendeva l'abilitazione e andava a lavorare in una scuola, sarebbe stata davvero di aiuto a mamma e papà. Avrebbe cominciato a ripagarli per tutto quello che avevano speso per lei da quando era bambina. E allora sì che Mary sarebbe andata all'università. A volte aveva quasi voglia di chiedere se non potevano mandarcela fin da ora, contando su quello che lei avrebbe guadagnato in futuro. Ma non ne parlava mai, per timore che mamma rispondesse che non potevano correre il rischio di cominciare e poi non farcela più. Quell'esile speranza, però, l'aiutava ad andare in paese più serenamente. I suoi soldi servivano. Sapeva che mamma e papà mettevano da parte ogni centesimo che potevano. Il paese era come una ferita nella bella prateria selvaggia. Vecchi covoni e mucchi di letame marcivano attorno alle stalle e il retro dei magazzini era brutto e disordinato. Anche in Second Street ormai non cresceva più l'erba e il vento levava una polvere grigia tra le case. Il paese sapeva di stantio, di fumo e di grasso rancido. Un odore greve usciva dai saloni e un sentore di umidità saliva dal suolo, accanto alle porte, sul retro degli edifici, dove la gente buttava l'acqua con cui aveva lavato i piatti. Ma se stavi in paese per un po' quegli odori non li sentivi più e ti distraeva veder passare la gente. I ragazzi e le ragazze che Laura aveva conosciuto l'inverno precedente non abitavano più lì. Erano andati anche loro a stare fuori. In paese abitavano i bottegai, che di solito dormivano in una stanza sul retro del negozio, mentre la famiglia, mogli e figli, se ne avevano, passavano l'estate in campagna, perché la legge diceva che si poteva avere un terreno in concessione solo se ci si abitava per un minimo di 6 mesi l'anno. Per 5 anni. E in quei 5 anni dovevi dissodare 10 acri di terra e coltivarli a cereali perché il governo ti desse finalmente la proprietà del terreno. Ma non sempre la terra vergine rendeva abbastanza perché una famiglia ci campasse, perciò le donne e le ragazze abitavano tutta l'estate in campagna per rispettare la legge. I figli maschi dissodavano i campi e gli uomini costruivano il paese e cercavano di guadagnare i soldi necessari a mangiare e a comprare gli attrezzi che arrivavano dall'est. Ora che conosceva un po' di più la vita del paese, Laura si rendeva conto che la sua famiglia stava molto meglio della maggior parte degli altri abitanti della regione. Questo perché papà era partito un anno prima. Aveva già dissodato parte del terreno l'anno precedente. Ora avevano l'orto, il campo di avena e il secondo raccolto di gran turco prometteva bene. Avrebbero avuto fieno per le bestie durante l'inverno e papà avrebbe venduto il gran turco e l'avena per comprare il carbone. Tutti i nuovi coloni stavano facendo quell'anno quello che lui aveva fatto l'anno prima. Quando alzava gli occhi dal cucito, Laura vedeva quasi l'intero paese, perché le case erano tutte lì, nei due isolati di là dalla strada. Ognuna aveva una falsa facciata, alta e squadrata, per far credere che dietro ci fossero due piani, ma non era vero. Due piani li avevano solo l'albergo di Mead, in fondo alla strada, l'albergo Birdsley, che era proprio lì, di fronte a lei, e il negozio di mobili di Tingham. Si vedevano svolazzare le tende alle finestre del piano di sopra, a dimostrazione che in tutta la fila di edifici che facevano finta di avere due piani, quei tre erano gli unici a non mentire. Ma quella era la sola differenza tra loro e le case vicine. Per il resto, gli edifici erano tutti fatti delle stesse tavole di pino, che all'aria e al sole cominciavano ad acquistare una sfumatura grigiastra. Avevano tutti due finestre, una di qua e l'altra di là dalla porta. Tutte le porte erano spalancate per far entrare il caldo dell'estate e tutte avevano una striscia di zanzariera di un rosa sbiadito inchiodata su un telaio di legno a fungere da porta scorrevole. Davanti alla fila di case correva il marciapiede di tavole di legno con una serie di pali a distanza regolare sul lato esterno per legarci i cavalli. Qualche cavallo c'era sempre qua e là e a volte vedevi anche un carro a buoi fermo sulla strada. Ogni tanto, spezzando un filo coi denti, Laura guardava fuori e vedeva qualcuno uscire da una casa, slegare il cavallo, montare in sella e andarsene. A volte si sentiva il cigolio di un carro. Quando diventava più forte, lei alzava gli occhi e lo guardava passare. Un giorno sentì gente che urlava e vide un tizio alto e magro piombare fuori dal salone di Brown. Dietro di lui qualcuno rinchiuse la zanzariera con un colpo secco. L'uomo si girò con aria di gran sussiego, osservò sprezzante la zanzariera e, alzando una delle lunghe gambe, le mollò un gran calcio. La zanzariera si squarciò da cima a fondo e da dentro venne un urlo di protesta. Il tizio non si scompose minimamente, si voltò per andarsene con la stessa aria sprezzante e si trovò di fronte un ometto piccolo e tondo. Uno voleva entrare, L'altro voleva andarsene, sicché restarono lì impalati a squadrarsi senza che nessuno dei due accennasse a muoversi. Lo spilungone cercò di apparire più alto che poteva e mise su un'espressione sdegnosa. Il piccoletto si fece ancora più tondo e massiccio e anche lui mise su un'espressione sdegnosa. Nel frattempo, il proprietario del salone era uscito sulla soglia a protestare a gran voce perché gli avevano sfondato la zanzariera, ma nessuno dei due lo degnò di uno sguardo. Si guardavano in cagnesco e facevano la faccia più sdegnosa che potevano. Poi lo spilungone prese l'iniziativa. Infilò il suo lungo braccio sotto quello corto e grassoccio dell'altro e tutti e due se ne andarono per la via cantando a squarciagola: «Qui è l'approdo navigante, qui è l'approdo di salvezza, non ti arresti la tempesta!» Fatti pochi passi, lo spilungone alzò la lunga gamba e con un calcio sfondò la zanzariera di Hawthorne. Dall'interno venne un urlo: «Ehi, ma che...» E i due ripresero il cammino cantando: «Non ti fermi la tempesta, qui è l'approdo navigante!» Non si era mai vista coppia tanto seria e dignitosa. Lo spilungone faceva i passi più lunghi che poteva. Il piccoletto cercava di stargli dietro con le sue corte gambette. «Non ti arresti la tempesta!» Tutto compunto, lo spilungone sfondò la zanzariera dell'albergo Birdsley. Il signor Birdsley schizzò fuori furibondo, l'altro proseguì imperterrito per la sua strada. «Non ti fermi la burrasca!» Laura rideva tanto da avere le lacrime agli occhi. Vide lo spilungone sfondare la zanzariera della drogheria Barker e il signor Barker venne fuori imprecando, ma le due gambe lunghe lunghe e le due gambe corte corte proseguirono serenamente per la loro strada, a grandi passi lenti le prime e corricchiando affannate le altre. Qui è l'approdo di salvezza. E fu la volta della zanzariera del magazzino di cereali dei Wilder. Royal Wilder uscì sulla porta a dire che cosa pensava della faccenda. I due lo ascoltarono con punti finché l'altro dovette fermarsi a prendere fiato. Allora il piccoletto disse: «Mi chiamo Ty Pie Pryor e sono sbronzo!» E con ciò se ne andarono cantando a gran voce quelle parole. Prima il piccoletto: «Mi chiamo Ty Pie Pryor», poi tutti e due in coro: «E sono sbronzo!» Lo spilungone non cantava mai la prima parte, quella del nome, perché lui non si chiamava Ty Pie Pryor, ma entrava sempre a tempo per cantare solennemente: «E sono sbronzo!» Alla fine, sempre tenendosi a braccetto, si infilarono nell'altro saloon. La zanzariera si richiuse alle loro spalle. Laura si aspettava la solita scena, ma quella zanzariera rimase intatta com'era. Lei rise fino ad aver male al fianco. Non riuscì a smettere nemmeno quando la signora White disse che era una vergogna da far arrossire i santi quello che poteva fare la gente con l'alcol in corpo. «Ma lo sai quanto costano tutte quelle zanzariere?» diceva. «Mi stupisco di te. I giovani di oggi non hanno proprio giudizio.» Quella sera a casa, quando Laura cercò di descrivere la scena perché Mary potesse figurarsela, nessuno rise. «Santo cielo, Laura, ma come puoi ridere di due ubriachi?» disse mamma. «Che storia orribile!» disse Mary. «Lo spilungone era Bill O'Dowd», disse papà. «Lo so perché suo fratello gli ha fatto avere una concessione qua giù per impedirgli di bere, ma due saloon qui sono due saloon di troppo.» «Peccato che gli uomini non lo dicano più spesso», disse mamma. «Comincio a pensare che se non si mette fine al traffico di alcol, toccherà alle donne prendere l'iniziativa e dire finalmente qualcosa.» Papà la guardò con gli occhi che ridevano. «Qualcosa? Mi sembra che tu da dire ne abbia parecchio. Mia madre non ha mai perso occasione per mettermi in guardia dall'alcol e tu neanche.» «Sia quel che sia», disse mamma, «è una vergogna che scene del genere avvengano sotto gli occhi di Laura.» Papà guardò Laura, gli brillavano ancora gli occhi, e Laura capì che lui non la biasimava per aver riso tanto di quella scena. 9 dollari. Il signor Clancy non riceveva più molti ordini. Forse chi aveva bisogno di camicie ormai le aveva comperate. Un sabato sera la signora White disse: «Quelli che dovevano arrivare questa primavera sono arrivati.» «Sì, signora», disse Laura. La signora White le desse i suoi $1,50 e: «Non ho più bisogno di te, non venire lunedì mattina. Addio.» «Addio», disse Laura. Aveva lavorato 6 settimane e guadagnato 9 dollari. Fino a 6 settimane prima, un dollaro le era sembrato un mucchio di denaro. Ora invece 9 dollari parevano pochi. Se avesse potuto lavorare una settimana in più, avrebbe portato a casa 10 dollari e mezzo. Se le settimane fossero state due, avrebbe fatto 12 dollari. È vero che l'idea di stare di nuovo a casa tutto il giorno la riempiva di gioia. Fare le faccende, accudire le bestie, lavorare nell'orto, andare a spasso con Mary, raccogliere fiori, aspettare il ritorno di papà la sera. Ma le sembrava di essere stata cacciata via e si sentiva vuota e triste. Percorse lentamente Main Street. Papà ora lavorava a un edificio all'angolo con Second Street. La stava aspettando vicino a una catasta di assi e quando la vide arrivare le gridò: "Guarda che cosa ho qui da portare a casa!" In terra, all'ombra della catasta, era posato un cesto coperto da un sacco di juta. Si sentiva raspare là sotto e pigolare. I pulcini! Li ha portati Boast oggi, disse papà. 14, tutti sani e vispi. Era raggiante al pensiero di quanto sarebbe stata contenta mamma. Il cestino non è pesante, disse a Laura. Prendiamo un manico per uno, così lo teniamo in piano. Fecero tutta Main Street e poi la strada fino a casa tenendo il cesto tra loro. Il tramonto tingeva l'orizzonte di rosso e il resto del cielo era d'oro. L'aria era tutta luce dorata e a est Silver Lake rosseggiava come un fuoco. Dal cesto saliva il pigolio ansioso dei pulcini. La signora White non mi vuole più, pa, disse Laura. Già, i grandi arrivi di primavera sono agli sgoccioli, disse papà. A Laura non era mai venuto in mente che anche papà potesse restare senza lavoro. Oh, pa, non ci sarà più lavoro neanche per te. Beh, non può certo durare tutta l'estate e comunque tra non molto dovrò cominciare a fare il fieno. Dopo un po' Laura disse: ho guadagnato solo 9 dollari. 9 dollari non sono da disprezzare e hai fatto un buon lavoro, no? È stata soddisfatta la signora White? Sì, disse Laura, perché era così. E dunque puoi essere contenta di te. In effetti, quella era una soddisfazione. Laura cominciò a sentirsi meno abbacchiata e poi stavano portando a casa i pulcini. Mamma ne fu felice. Carrie e Grace vennero a sbirciare dentro il cesto e Laura li descrisse a Mary in tutti i particolari. Erano pulcini sani e vivaci, con tondi occhietti neri e zampette giallo canarino. Stavano già perdendo il piumino e avevano qualche chiazza di pelle nuda sul collo, ma sulle ali e sulla coda si vedevano già spuntare le penne. Erano di tutti i colori che possono avere i pulcini e ce n'era qualcuno perfino a macchioline. Mamma se li mise con delicatezza nel grembiule. Non possono venire tutti da una sola chioccia, disse. La signora Bost deve averci dato la covata di almeno 2 galline. I Bost sono avanti a tutti con i polli. Probabile che abbiano già dei galletti da mangiare quest'estate, disse papà. Può darsi che qualche galletto lo abbiano preso di qui per tirargli il collo a tempo debito. Sì, e magari lo hanno rimpiazzato con delle galline che poi faranno le uova, disse mamma. Sarebbe proprio tipico della signora Bost fare una cosa del genere. Non c'è donna più generosa. Mise i pulcini nel grembiule, andò a depositarli uno a uno nella stia che papà aveva già costruito. Aveva la parete davanti di graticcio per far entrare l'aria e il sole e una porticina con un piccolo chiavistello di legno per chiuderla. Il pavimento non c'era. L'avevano posata su un tratto di erba pulita, così i pulcini avrebbero avuto da mangiare. Quando quell'erba fosse stata tutta sporca e pestata, avrebbero spostato la stia da un'altra parte. In una vecchia padella, mamma preparò una poltiglia di crusca ben pepata. La mise nella stia e tutti i pulcini vi si affollarono dentro, becchettando con tale voracità che ogni tanto per errore si beccavano le zampette. Quando ebbero mangiato a volontà, andarono ad appollaiarsi sul bordo della vaschetta con l'acqua. Per bere, tiravano su un po' d'acqua col becco e per farla andare giù allungavano il collo e piegavano indietro la testa. Mamma diede a Carrie il compito di dar da mangiare ai pulcini e di badare che avessero sempre acqua fresca e pulita a disposizione. L'indomani li avrebbero lasciati liberi di zampettare dove volevano e sarebbe toccato a Grace fare la guardia, che non piombasse giù un falco ad acchiapparli. Quella sera, dopo cena, mamma mandò Laura a vedere che i pulcini stessero bene e dormissero tranquilli. Sono Sopra la terra buia brillavano innumerevoli stelle e a occidente, appena sopra l'orizzonte, si stava levando una falce di luna. La prateria respirava piano, addormentata, nella notte quieta. Infilata una mano nella stia, Laura tastò i pulcini. Si erano addormentati, stretti gli uni agli altri in un angolo. Poi si rialzò e stette a guardare il cielo. Non avrebbe saputo dire quanto tempo era passato quando vide mamma uscire sulla soglia. «Ah, eccoti qui, Laura», mormorò. Poi anche lei si chinò a infilare una mano nella porticina della stia per toccare i pulcini e anche lei, rialzandosi, si fermò un momento a contemplare il cielo. «Comincia a sembrare una vera fattoria qui», disse. Nel nero della prateria spiccavano appena più chiari il campo di avena e quello di mais. L'orto era un campo nero tutto bitorzoluto di foglie, tra cui lucevano appena, come pozze di tenue chiarore di stelle, i vitici dei cetrioli e le zucche. La stalla, con le sue pareti di terra, non si vedeva quasi, ma dalla finestra di casa usciva una calda luce gialla. Di colpo, senza averci pensato prima, Laura disse: «Ma come vorrei che Mary potesse andare all'università già quest'autunno?» «Sì, può darsi», rispose mamma inaspettatamente. «Papà e io ne abbiamo parlato». Laura restò senza parole per un minuto buono, poi chiese: «E a lei? Glielo avete detto?» «Non ancora», disse mamma. «Non bisogna suscitare false speranze. Con i soldi che guadagna papà e la vendita dell'avena e del mais, se tutto va bene, dovremmo potercela mandare già quest'autunno, ma bisogna essere sicuri che poi possa restarci per i 7 anni del corso e del tirocinio». In quel momento Laura si rese conto per la prima volta che se fosse andata all'università, Mary non sarebbe più stata a casa con loro. Tutto il giorno senza Mary. Non riusciva nemmeno a figurarsi come poteva essere la vita senza di lei. «Oh, ma io vorrei...» si interruppe. Aveva tanto desiderato che Mary potesse andare all'università. «Sì, ci mancherà moltissimo», disse mamma con dolcezza. «Ma dobbiamo pensare che è per il suo bene». «Lo so, ma...» disse Laura abbacchiata. La notte era grande e vuota ora. La luce che veniva dalla casa era calda e ferma, ma nemmeno la casa sarebbe più stata la stessa senza Mary. Poi mamma disse: «I tuoi 9 dollari saranno di grande aiuto, Laura. Ho fatto i conti e con quei 9 dollari credo di poter comprare tutto quello che serve per farle un bel vestito e magari ci viene anche il velluto per una cuffia nuova».